Sicuramente una bella giornata per i diritti, per la democrazia in questo paese, perché era una legge voluta, era una legge che l'Italia aspettava da tanto tempo e che riguarda diritti fondamentali, incomprimibili, qual è quello della libertà di autodeterminazione delle persone rispetto alla propria salute, rispetto alla propria vita. È stata una cosa positiva che in questa strana legislatura, partita così male, si siano poi approvate alcune leggi importanti sui diritti civili, prima di questa molte altre, riunioni civili, divorzio breve, convivenza di fatto, la legge contro il caporalato, ma questa chiusura, anche se speriamo sempre che possa esserci una finestra anche per lo ius soli, questa chiusura di legislatura con una legge così importante per i diritti delle persone è un fatto veramente molto positivo. È una legge equilibrata che è riuscita a tenere insieme le posizioni anche un po' diverse, ma che per l'appunto, ragionando nel merito, sono riuscite a ritrovarsi attorno a un paio di principi. È chiaro che c'è stato qualcosa di più, come dire, difficile su cui ragionare. Penso per esempio a quel tema che aveva spaccato il Parlamento, il Paese, ai tempi della vicenda di Eluana Englaro, cioè dire la questione della idratazione, dell'alimentazione forzata, e se fosse un diritto della persona chiedere che anche questi trattamenti, anche queste terapie potessero essere sospese. Questa legge dice di sì. Questa legge dice che anche il sondino che tiene in vita un paziente, una persona che è oramai in stato di incapacità di intendere di volere, in stato vegetativo, è una terapia rispetto a cui la persona ha un diritto di dire la propria. Ha il diritto di stabilire in anticipo, nel caso appunto di incapacità di intendere di volere, se vuole che vengano mantenuti queste terapie oppure no. Detto questo, viene salvaguardata la relazione fra medico e paziente, ma dando sempre alla persona, dando sempre al paziente l'ultima parola. Si dicono delle cose importanti sulle terapie del dolore, sulle cure palliative, su come trattare la questione dei minori e degli incapaci. Insomma, una legge molto equilibrata che il paese aspettava da tempo. Tempo stesso però tu dici il dibattito sul fine vita però non è chiuso. Non è chiuso perché c'è un tema che oggi è tabù, che oggi riguarda ancora un dibattito un po' asfittico, che fa fatica in particolare, che ancora non c'è stato nel paese, ma che io sono certo che nel momento in cui ci sarà, verrà anche delle posizioni più avanzate di quello che si pensi, ed è il dibattito sulla eutanasia. È una parola che si fa fatica oggi a pronunciare in Parlamento, è stata pronunciata molto spesso per dire, come effettivamente è, che questa non è una legge sulla eutanasia. È vero, questa non è una legge sull'eutanasia, però alcune situazioni come quelle di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi, penso a quella di Gianfranco, della vicenda di Marco Cappato che si trova oggi sotto processo per aver aiutato Fabo ad andare in Svizzera per poter decidere da sé di concludere la propria vita. Bene, questo tema è un tema che oggi si può aprire a partire da un risultato già acquisito come quello della legge appunto sulle disposizioni anticipate di trattamento. Oggi si può riaprire anche quel dibattito, e chiaro che sarà un tema che riguarderà il prossimo Parlamento, ma io mi auguro che nella prossima legislatura diventi uno dei temi di discussione.